essere e avere. Signore e signori, benvenuti a OK! Il prezzo è giusto! E se il prezzo giusto fosse zero? Di nuovo in studio con Essere e Avere, questo l'interrogativo di partenza per il focus sui trend di questa settimana. Parliamo di no cost. Lo facciamo come sempre in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Club, docente di sociologia dei consumi e analisi delle tendenze alla nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Oltre il low cost, la tendenza del momento amica dei consumatori si chiama appunto no cost. Baratto, ma non solo, sono gli acquisti a prezzo zero a fare notizia, dai beni condivisi ai prodotti in comodato d'uso o offerti come tester in cambio di recensioni, fino agli agriturismi, pensate, dove non paghi se dai una mano, una vera e propria free economy, un'economia del gratuito che in realtà, a conti fatti, riesce a far guadagnare tutti. Patrizia. Quel che è mio è tuo, è il titolo che usa in apertura del saggio di Rachel Butzman e Ru Rogers, che ha anche ispirato il progetto italiano WeEconomy, l'economia del noi. È l'ascesa del consumismo collaborativo, così lo definiscono i due autori. Insomma, un'altra idea di consumo grazie al social sharing, alla condivisione di beni e servizi tra le persone. Sono molte le nuove forme dell'economia condivisa, parliamo di baratto, di scambio, di prestiti più o meno temporanei, nei nuovi comportamenti economici delle persone alimentati da quelli che sono i valori cardine della cultura digitale, la condivisione e la fiducia. Naturalmente tutto questo si poggia sulla facilità informativa e connettiva della rete, grazie soprattutto ai social network, che rende appunto queste pratiche, questi nuovi comportamenti alla portata di tutti, sono veloci ed efficienti. In molti casi, infatti, proprio nel micro del quotidiano, quando serve una scala, un trapano, un attrezzo da giardino, un aspirapolvere, ma anche una bicicletta, un'automobile, ci si accorge che non è così necessario acquistare, è sufficiente un prestito, appunto temporaneo. Austerità e opulenza, diciamo, hanno fatto ripensare al senso della proprietà, stanno facendo ripensare al senso della proprietà e dell'uso delle cose, soprattutto delle commodity. È un po' come dire disporre meglio che possedere. Fra i primi a teorizzare il gratuito come nuova formula di marketing, come forma di induzione al consumo, Chris Anderson. Ecco come spiega come fare business a partire dal prezzo zero. La chiave è la formula freemium, espressione che nasce dalla sintesi di free e premium. Freemium is really what I would call the first 21st century business model. Freemium è quello che noi chiamiamo il primo modello di business del XXI secolo. Se hai un prodotto digitale, puoi distribuire il 90%, puoi regalare fino al 95-99%. Quello che poi devi fare è convertire una frazione dell'utilizzatore gratuito del tuo prodotto in utilizzatore pagante, ma offrendogli di più. Ecco cosa fa il freemium. In un certo senso, il freemium è il nemico della pubblicità, è il contrario della pubblicità. Le compagnie che usano questo modello non usano nessun'altra forma di pubblicità o di marketing, perché il prodotto gratuito si piazza da solo. Quello che devi fare non è convincere la gente a comprarlo, ma solo a provarlo. E il prodotto si autopromuove, e quando verrà il momento di pagarlo, lo faranno molto volentieri.